Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1864, la Convenzione di settembre, Torino non è più capitale. Un fulmine, una vera tempesta politica alla fine di un anno e di un'estate che erano passati senza grandi scossoni, se si eccettuano gli effetti su cui grava un tombale silenzio della repressione al sud. A Torino la tensione è palpabile, si attende quasi fosse inevitabile un'esplosione di rabbia, mentre molti in città parlano di tradimento. Da parte di chi? Del governo Minghetti, ma andiamo con ordine. La notizia innanzitutto. Dopo mesi di segretezza più o meno impenetrabile si è saputo che il governo Minghetti ha siglato il 15 settembre di questo 1864 un accordo con la Francia che prevede il ritiro dei francesi da Roma in cambio del rispetto dell'integrità dello Stato della Chiesa, ma soprattutto è del trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Ma come si è arrivati a tanto? Un primo segnale che la questione romana sarebbe stata affrontata con la diplomazia si era avuto a maggio, quando il presidente Minghetti in Parlamento ha pronunciato queste parole. Tutti voi, o signori, ricordate il voto del 17 marzo che compì quella splendida discussione, una certo delle più memorabili del nostro Parlamento, quel voto col quale la Camera acclamava Roma come capitale d'Italia. Questo principio di diritto nazionale rimane assoluto e immutabile. Su questo punto non può, non deve esservi contesa. E l'Italia intera, o signori, sente che senza di Roma il suo essere nazione non sarebbe compito. Ma, o signori, questo principio di diritto nazionale, è egli il mezzo, l'argomento efficace per ottenere dalla Francia lo sgombero delle sue truppe da Roma? Io non lo credo. E credo che a tal fine fa mestieri entrare in un diverso ordine di idee. Durante l'estate il governo di Torino ha trattato, il grande tessitore è stato l'ambasciatore a Pietroburgo, Pepoli. Anche il re inizialmente è stato tenuto all'oscuro, poi ha saputo e pare abbia cercato di mitigare le condizioni dell'accordo, soprattutto di allungare tempi e modi del trasferimento della capitale da Torino. Non 5 mesi ma 2 anni, non l'intera capitale ma solo il Parlamento, ma non c'è riuscito. Si è detto che il trasferimento sia stato imposto da Napoleone III. Secondo la Gazzetta del Popolo, l'idea di questo trasferimento è di un plenipotenziario italiano. La Gazzetta del Popolo titola Tradimento e riporta l'intervento di Luigi Menabrea in Consiglio dei Ministri, che ha accusato lo stesso Pepoli di aver indicato come garanzia morale chiesta dalla Francia il trasferimento della capitale a Firenze. Torino è attonita, stupita, sconvolta. La protesta è attesa, sembra persino desiderata dal governo. Nelle strade staziona l'esercito richiamato dal ministro dell'Interno Peruzzi. Reparti con tanti soldati del sud, si dice, che sarebbero più disponibili a sparare. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.